Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tu, lì in fondo, non hai il libro? No. Pinocchio, tu che sei il migliore della classe, vai a sederti vicino al lucignolo che è senza libro. In via eccezionale per oggi potrete leggere insieme. Quella che ci apprestiamo a fare oggi è una lettura di principi morali. Laggiù, Pinocchio e Lucignolo, non sento le vostre voci. L'uomo nasca ricco o povero. L'uomo nasca ricco o povero. È obbligato in questo mondo a lavorare. È obbligato in questo mondo a lavorare. Beh. Lucignolo, fuori! Ciao. Riprendiamo la lettura. Chi non lavora non mangia. Chi non lavora non mangia. E finisce presto o poi all'ospedale o in carcere. E finisce presto o poi all'ospedale o in carcere. Beh. Pinocchio, non mi sarei mai aspettato da te una cosa simile. Ma la legge è uguale per tutti. Fuori! Oggi è complicato il tema della trasmissione, anche perché è vicinissimo, diciamo che è la prosecuzione del tema di ieri. Voi direte che c'entra con il Fertility Day il verso della pecorina. Eh no, c'entra, c'entra parecchio. Questa è una classica indicazione collodiana, in un'epoca in cui bisognava dare dei bravi e dei buoni insegnamenti ai ragazzi, di cosa sono le cattive compagnie. Lucignolo è una cattiva compagnia perché mentre il maestro sta declamando le virtù e le punizioni, gli anatemi verso chi infrange la legge del buon vivere, Lucignolo fa il verso della pecorina. Il Fertility Day, come sapete, ha avuto una sua appendice, una seconda campagna. Noi ieri abbiamo parlato della prima campagna, ancora non avevamo avuto contezza di quale sarebbe stata la seconda campagna, che ha definitivamente distrutto quello che oggi poteva essere un buon intento delle brave persone che si hanno comunque lasciate convincere e sono lì pronte con il reggicalza in mano e con lo spillo per bucare il preservativo per festeggiare Fertility Day. Non lo faranno oggi perché c'è grande confusione. Ricordo, per chi ancora non lo sapesse, anche se ormai è noto perché la notizia più ripetuta e condivisa nei giornali e nei siti internet, la seconda campagna era così rappresentata: c'era una serie di azioni negative, nocive alla salute, che facciano malissimo alla salute, per non essere naturalmente pronti a celebrare il Fertility Day, e la copertina, come summa di tutte le azioni nocive, c'era non frequentare le cattive compagnie. Non era esattamente così, ma il tema era questo. La pagina era divisa a metà con due immagini che hanno fatto rabbrividire l'Italia. È cominciata una campagna terribile, tanto tutti pensavano fosse un fake. No, invece era vero, e quando il ministro l'ha saputo ha licenziato la sua responsabile della comunicazione. Com'era articolata la campagna? Ve lo dico subito, così poi andiamo avanti. Gli amici che fanno bene alla salute sono due ragazzi e due ragazze abbracciati, arriva un oceano spumeggiante, quindi probabilmente è stata fatta in California, qualcosa del genere. Costa 9 euro, costa questa immagine, abbiamo visto, quindi 4 soldi, il braccino corto è costato la testa alla responsabile della comunicazione. Hanno i capelli biondi, fluttuanti, belli, con il balsamo che ondeggiano, e sorridono e si abbracciano. Cos'è? Un esprima al tournée direbbe: si preparano a uno scambio di coppia, a una ammucchiata a riva al mare. No, invece sorridono con quei denti bianchi, perché l'immagine è presa da un catalogo di immagini che servivano per pubblicizzare quelli che sono le brochure dei dentisti, e quelle sono le persone buone da frequentare. Quelle cattive, apriti cielo, c'è tutta una specie di striscia nera, quasi fosse il discrimine fra il paradiso e l'inferno, e c'è un'immagine seppiata, color seppia, che non si usa più la seppia da il 1992, usare le foto finte seppiate. Beh, seppiata c'è, diciamo, la sentina di tutti i vizi. Ci sono della gente, si vede male. La foto originale che abbiamo ripristinato, la trovate in giro su Twitter, è stata presa da un altro catalogo di foto, costa $12, l'equivalente di 9 euro. È una foto che doveva far vedere probabilmente, non ne so, un'immagine classica iconografica nel Bronx americano di gente che si fa dei grandi cannoni. Ci sono dei ragazzi che si preparano le canne, altri si preparano gli spinelli, stanno lì un po' sballati. Ce ne sono anche dei ragazzi, diciamo, di etnia caucasica, ma prevale l'immagine di alcuni ragazzi dalla pelle nera con i capelli da rasta. messa seppiata, infilata sotto i belli, beh, insomma, faceva un po' senso, che sembrava con i bianchi fa bene alla salute, quindi ci si accoppia e si fa il Fertility Day, con i neri no. Sbagliando completamente, perché è logico, se oggi uno ci fosse mai un'idea in un posto, una popolazione dove fertilizzano alla grande, sono proprio gli africani, quindi è un controsenso totale, ma è suonata come razzismo e quindi oggi è successo un casino. Vi pongo la domanda, visto che questo ci richiede il Ministero della Salute per la vostra salute, secondo quali criteri estetici e etici voi giudicate con un colpo d'occhio le persone da frequentare e quindi che fanno star bene e quelle infrequentabili? 800 24 00 24. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi la trasmissione è abbastanza varia e variegata. Scusate, è una persona fortemente lesionata nel suo apparato respiratorio qui in studio. Fra un po' vi dirò chi è. Se tossisce non ce la prendiamo. Per simpatia tossisco anch'io, così facciamo vedere che siamo politicamente correttissimi. Allora, volevo dire, oggi è vasto il tema. Io voglio dire, innanzitutto il nesso fra le buone e cattive amicizie e il tasso di fertilità, questo è già un tema. Secondo, qual è la percentuale di aspetti esteriori esecrabili attraverso cui voi giudicate una cattiva compagnia? Quando vostro figlio viene a casa con un amichetto, da cosa vedete se è un cattivo compagno che lo renderà sterile o un buon compagno che lo renderà fecondo? Il criterio giusto è quello scelto dall'esperto in comunicazione del ministero, di dire i rasta e gli africani vanno tenuti fuori dalla casa che vuole far entrare la benedizione di una fecondazione, oppure devono stare dentro? Questa è la domanda, anche perché mi scrive un ascoltatore subito: Nicoletti, non sono razzista ma obiettiva, purtroppo il 99% dei rasta da Bob Marley in poi sono estremamente disinvolti, usano e spacciano droghe varie. Indubbiamente, chiaro, è l'apoteosi del farsi i cannoni, i rasta e Bob Marley, ma se lo vediamo dal punto di vista della fecondità, che in fondo è il tema che doveva essere pubblicizzato da questa campagna. Cinzia Leone, buongiorno. Buongiorno. Cinzia Leone è una giornalista, una graphic novelist, ha molta esperienza di vita e di osservazione. Eri tu che tossivi, quindi non fare la disinvolta. Alla domanda del primo ascoltatore, tu che maneggi la comunicazione disegnando, immaginando e pensando, c'è un'incongruenza sul fatto che proprio il rasta, il Bob Marley, viene rappresentato come l'antitesi del fecondatore? Ma io direi che più che l'antitesi è una conferma, perché Bob Marley ne ha avuto 13 figli, 13 o 14 figli, ma tutti i cattivi maestri della mia generazione ne hanno avuti parecchi ed erano davvero cattivi maestri. Mick Jagger ce ne ha avuti 7, Keith Richards 5 e... come dire, solo Bob Marley è come dire colored, però rimane il fatto che persone che cattivi maestri sono, non per questo sono infertili, anzi potremmo forse sostenere il contrario. È il contrario, quindi va rovesciato completamente il senso di questa campagna. Bruno Ballardini, esperto di marketing e comunicazione strategica, ha scritto un'infinità di libri sul marketing, ne cito qualcuno: Isis, marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi, Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, PM, poi ne abbiamo fatti tanti. Bruno Ballardini, iniziamo. Buongiorno. Iniziamo, sei d'accordo con la lettura di Cinzia Leone che in effetti... laddove dovrebbe essere indicato come la negazione della fecondità, se di fecondità si parla, quelli erano i più grandi fecondatori che ricorda la storia. Ma io sono d'accordissimo con Cinzia. Ciao Cinzia. Ciao. Il discorso è anche un po' più ampio, cioè se c'è un rasta, se c'è un diverso in termini quasi razzistici, per me è la Lorenzin, perché ha messo su due volte, perseverare è diabolico, due azioni di comunicazione firmate, patrocinate dal Ministero della Salute, che sono un autogol clamoroso. Trovo più interessante, più educativo per la sensibilizzazione un articolo come quello che è uscito su Wired di quest'estate, dove si facevano vedere degli alpini, dei corpi militari italiani, cinesi e arabi, per far capire che c'è un problema. Il problema però non lo risolvi con una campagna pubblicitaria, perché la pubblicità non può educare. Questo è l'errore madornale che continuano a fare i ministeri, pensando di convincere gli italiani, anzi no, persuadere, come dice anche Anna Maria Testa. E andatevi a leggere quello che ha scritto su Nuovo e Utile, il suo blog, che è assolutamente sottoscrivo in pieno. Pensano di educare dall'alto, in modo paternalista, modificando i comportamenti attraverso la pubblicità, cioè una botta e via. Ma anche se durasse un anno questa propaganda, non funziona, perché la pubblicità non funziona in questo modo. Diciamo, Bruno, se c'è stata una maniera per farci passare la voglia comunque di pensare che i nostri non casti connubi possono essere finalizzati comunque anche alla procreazione, è stata questa. Ti verrebbe da ridere. Chiunque questa mattina, da questa mattina in poi, si accostasse all'uomo o alla donna della sua vita dicendo facciamo un figlio, l'altro si mette a ridere, perché gli viene in mente i pedalini del bambino, la donna con la clessidra, il rasta che si fa le canne, gli scambisti di coppia con i dentoni sfavillanti in riva al mare. Tutte queste cose hanno un effetto deterrente per la giusta tenuta necessaria a quel minimo indispensabile a fecondare. Giuseppe, buongiorno. Salve, buongiorno e grazie per avermi consentito di partecipare. Io vorrei semplicemente fare un'obiezione alla comune convinzione che se non ci si esprime in un certo modo, anche in questo caso attraverso delle fotografie, una fotografia, allora si può essere razzisti e via dicendo. Io ci tengo a precisare, non sono un sostenitore della Lorenzina, anzi forse esattamente l'opposto. E ritengo che quella foto non sia razzista, la foto dove appunto non vi è la presenza di un uomo di colore. Io ritengo di essere una persona non razzista, conosco molte persone che hanno un colore diverso della pelle, però penso che il migliore modo per essere razzisti sia quello di esasperare appunto questi atteggiamenti, definendo ad esempio razzista una foto dove non c'è una persona di colore, o definendo denigratorio una foto dove viceversa e l'uomo di colore sta fumando una canna. Perché poi sono una persona io abbastanza pragmatica, a me piace vedere quella che è la sostanza delle cose. Allora Giuseppe, mi prendo la lezioncina di politicamente scorretto, però le posso dire la verità, ha sentito nominare la parola razzista da me. Io se invece mi viene da ridere, perché ha messo i più grandi trombatori e fecondatori che ricordi la storia moderna come l'antitesi alla fecondazione. Io non ho detto il termine razzista, ma mi faccia ridere e basta. Non mi sono indignato, mi sono messo a ridere. Evidentemente ho sensibilità simile alla sua. Se poi vogliamo vederlo da un punto di vista di merito, un ministero che mette in un momento particolare in cui l'immigrazione è al centro delle problematiche nazionali, le persone nere come quelli da non frequentare, non è proprio bellissimo, diciamoci la verità, in un momento in cui c'è in discussione al Parlamento una legge sulla depenalizzazione delle droghe leggere, un ministro che appartiene alla stessa compagine governativa fa vedere quelli che si fanno le canne, che in realtà potrebbe essere che magari fra qualche tempo lo fanno in perfetta liceità e quindi non c'è nessun tipo di controindicazione. Nicola, buongiorno. Buongiorno, guardi, a me fa solo sorridere questa forma di propaganda, perché mi sembra che sia una divisione fra il bene e il male, no, questo è bene e questo è male. Io rispondendo alla domanda che faceva lei in trasmissione, cioè dice ma secondo lei come si fa a definire chi è buona compagnia e chi è cattiva compagnia? Questo mi interdica lei, come fa? Il suo colpo d'occhio. Buona compagnia è una persona che sa ascoltare, quando sono di fronte a qualcuno che sa ascoltare, che non è prigioniero di un pensiero unico assolutista, per cui lui conosce, sa che le cose vanno in Ma pensi, lei pensi, entrano in casa sua due stranieri, due incappucciati cattivi, la legano, cominciano a torturarla, dimmi dov'è la cassaforte. Quelli la sanno ascoltare, ma sono delle buone compagnie. Guardi, ma se io sono capitato in questo, sono stato proprio in questa situazione, sono stato mentre ero al lavoro in una la torturavano preso come ostaggio in una rapina, quindi mi è capitato anche questo, le posso dire. E ha pensato che quelle erano cattive compagnie? Non ho pensato, soltanto che stavo vivendo un momento drammatico della mia vita, ma non potevo giudicare chi fosse, chi erano, chi non erano e che cosa sarebbe successo. Lei dopo. È una visione invidiabile, molto, molto francescana della vita. Lei non giudica finché non ha gli elementi necessari per giudicare. Cinzia, dovevi aggiungere qualcosa? Ma sì, perché leggo al volo il comunicato stampa numero 103, proposito del Fertility Day del Ministero della Salute, che è stato anche ripreso poi nella comunicazione dei social dalla ministra, ed è divertente perché fa un lapsus, no? Leggo l'incipit all'inizio: in relazione alle polemiche apparse sui media relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della Salute per un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione della fertilità predisposti per i Fertility Day, cioè si parla di prevenzione della fertilità. Ma quindi è la campagna contro. Segnalo questo perché vuol dire fabbrica preservativi. Perché l'attenzione. Ora, ho capito male. Abbiamo fatto dimettere un ufficio stampa, abbiamo licenziato un ufficio stampa. Qui bisogna, come dire, riflettere su come si scrivono i comunicati, su come si fa la comunicazione sui social. Sì, la ministra dovrebbe un po' stare più attenta. L'hanno radicalizzato male. In realtà, sì. Come nasce questo Fertility Day? È giusto. Dice, ragazzi, andatevi a far vedere ogni tanto palle pisello dal dottore, perché così almeno state tranquilli, poi fate quello che volete. E ragazzi, ma le ragazze già lo fanno, ogni tanto fatevi qualche test prima di sposarvi, così capite se colpa sua. Questa è la base, nasce dai medici. E poi è entrato il portato ideologico, naturalmente, è tutto venuto, non lo fa per piacer mio, ma per fare un figlio. Addio, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo andando totalmente a ruota libera, ma questo significa che la deriva che ci impone l'analisi di questa campagna del Fertility Day, ripeto la domanda che ho fatto io, attraverso quali criteri estetici, perché qua è il colpo d'occhio che giudica, voi in qualche maniera discriminate tra le persone frequentabili e infrequentabili, quali sono le cattive compagnie, come si vede che è una cattiva compagnia. Questo anche perché un'altra volta che qualcuno deve fare una campagna umanitaria e dire questi fanno male alla salute, vediamo come rappresentarli. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accolto la mia chiamata. Ma io penso che l'opuscolo in questione, concentrandomi sull'opuscolo, ho visto l'immagine, sia stato letto in maniera sbagliata, perché in realtà io... Allora è fatto in maniera sbagliata, perché se un opuscolo pubblicitario, se lo leggo male, vuol dire che è ambiguo, è stato fatto male. Ma in realtà ci si concentra sul fattore, tra virgolette, di razzismo o comunque di perbezionismo. Cioè, scusi, ma ci si concentra su ciò che è più evidente. Se è un messaggio pubblicitario, l'evidenza conta. Chi l'ha fatto e pensato doveva pensare, mettiamo in secondo piano questo aspetto e diamo un primo piano. Scusi, la rettifico in corso d'opera, la lascio parlare. Certo, il primo piano... Comunque per me rimane lo stile di vita che è sbagliato per quanto riguarda le persone che stanno fumando quello che stanno facendo, insomma, durante il loro atto. Questo lo può pensare, certo, chiaro, giusto che lo pensi. E invece che la coppia che amoreggia in maniera normale in riva al mare. Erano in quattro, comunque, già c'era aria da ammucchiata. Sì, certo, non bisogna concentrarsi su questo. In realtà il messaggio. Ognuno di noi ha una coscienza, sa che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Io da persona cosciente, da persona matura e non razzista, non leggo quell'opuscolo pubblicitario concentrandomi sul colore della pelle, ma mi concentro su quello che fanno. Io non sono sessualmente d'accordo con le ammucchiate, quindi non leggo nemmeno la ammucchiata, nemmeno io, ma mi concentro semplicemente sul fatto che loro stanno amoreggiando, quindi riesco a scindere e a capire che in realtà quella cosa è una cosa buona. No, veramente, scusi, sembrerò pedante, non stanno amoreggiando, c'hanno dei sorrisi stampati perché era la pubblicità di un dentista e guardano la camera sorridendo, tutto sembra meno che interessati a amoreggiare. Certo, però comunque rimane dal mio punto di vista un amoreggiare o comunque condividere quel momento tra uomo e donna in maniera normale. Uomo e donna, sono quattro. Vabbè, sì, da questo punto di vista è apprezzabile quello che dice, e ha pieno diritto a dirlo. Maria, buongiorno. Maria? Buongiorno. Sì. Io sono soltanto amareggiata profondamente. Perché sì, però non se la prenda così a cuore che piange. Capisco che è una situazione drammatica questa pubblicità, ma prendiamola a ridere, la prendiamo un po' allegramente, no? Ci ridiamo. Un opuscolo pubblicitario di questa portata va abolito immediatamente. Ma infatti l'hanno ritirato dopo 10 minuti. Perché? Ma io non mi spiego come si possa fare la giornata Fertility Day, ma per favore, negli anni 70 noi abbiamo impiegato anni di studio, azioni comunitarie, di gruppo, per trasmettere i valori della coscientizzazione, della responsabilizzazione, della paternità, della maternità. Io sono stata componente dei comitati di gestione dei primi consultori familiari e noi cercavamo di far capire alle persone, soprattutto in Calabria, cosa significasse diritto alla nascita, diritto alla vita. Mi faccia capire, Maria, lei parla degli anni 70? Negli anni 70. Ecco, qual era la situazione negli anni 70 e 80? Lei, leggo dalla scheda, è una signora che ha visto molto mondo, ha visto. Diciamo. Molto mondo, io ho lavorato 50 anni nei servizi sociali. E 50 anni mi hanno detto tante cose che oggi non si dicono più. Mi faccio un esempio, qual era l'Italia che ha visto lei? Così capiamo come siamo arrivati alla necessità di fare degli opuscoli per spiegare ai ragazzi che devono accoppiarsi per fare figli. Come ci siamo arrivati? Noi siamo arrivati perché il birth control di cui si parlava era necessitato dalla numerosità dei figli che si procreavano nella massima istintività, direi animalesca piuttosto che razionale, intelligente. Allora abbiamo detto a tante di quelle persone che ignoravano veramente i valori razionali della vita, che sono diritto a nascere, ma significa anche avere diritto allo spazio, diritto al tempo. Quindi lei, mi scusi Maria, lei ha toccato una situazione nazionale negli anni 70 e 80 che sembrava l'antitesi rispetto a quello che oggi stiamo proclamando. Italiani che per sottocultura si accoppiavano come conigli perché non sapevano esattamente anche il significato dell'accoppiarsi, del fatto di fare figli, che può essere una maniera per stare assieme a una persona, per ribadire il fatto che si ami una persona, si desidera una persona, via dicendo. Quindi avevano la funzione procreativa vicina a quella dei conigli, diciamolo chiaro così. E voi dovete insegnare che in realtà quell'atto doveva avere un significato anche per avere una vita più dignitosa e più decente. Ho interpretato bene? Di questa portata, che oltre a essere razzista, perché è razzista, anche se si vuole adesso mettere il velo per coprire questo istinto negativo che è il razzismo che ancora impera. E allora io dico, gli interventi che abbiamo fatto non possono essere vanificati. Noi abbiamo lottato decenni per... Beh, e si vede, scusi Maria, voi avete lottato talmente bene, siete state talmente brave, avete insegnato agli italiani che conigliavano a fare atti responsabili finalizzati magari anche soltanto alla voglia di stare assieme, tanto bene che adesso ci troviamo negli anni 2016 che serve una campagna per i Fertility Day. Quindi onore al soldato Maria che insegnò agli italiani che copulavano in maniera indifferenziata e responsabile a farlo in maniera più responsabile. Talmente responsabile che oggi ci troviamo di fronte al Fertility Day. Cosa vuole dire, Cinzia? No, nulla, che prima siamo partiti dal verso della... Io concordo assolutamente con la signora Maria. Ha 82 anni, Maria. Però la signora Maria ha fatto un gran lavoro, no? Per tutti. E non credo che sia colpa della signora Maria se nessuno ne rimane più incinta. Forse sono una condizione... Beh, è stata brava, ha insegnato... No, è stata... Ha insegnato a controllare l'effetto... come dicevi? È l'effetto 15 secondi, esatto. Diciamo che quello che viene chiamato il coitus citus, che gli antropologi dicono che è l'esempio base dell'umanità. Quando si dice l'umanità, il sesso naturale per l'umanità si chiama coitus citus, 15 secondi, eiaculare e scappare via. Questo sì. Come fanno gli animali, esattamente, no? Il resto è tutta cultura, è tutta invenzione. Bruno Barlardini. Io mi sono commosso a sentire la compagna Maria, perché questa è una buona compagna in contrapposizione ai compagni di cui parla il ministero. Il discorso è, comunque, io lo faccio in termini tecnici, davanti al capitolato tecnico del Ministero è noto dei punti messi sotto forma di briefing, cioè quelle istruzioni che si danno ai pubblicitari per poi elaborare le strategie di comunicazione, ed è una pasticcio allucinante. Dacci il brief per capire il punto. E cioè, colui allora, che ha pensato questa, che ha fatto questa campagna, aveva avuto delle indicazioni. Quali erano? Ci sono, a parte tra parentesi, ho fatto una breve indagine su Facebook tra colleghi e sembra che non abbia partecipato nessuno. Perché? Perché ve lo dico anche da ex logico, un problema che parte su premesse sbagliate non ha soluzioni giuste, cioè ha anche le conclusioni a cui arriva sono sbagliate, quindi le agenzie probabilmente hanno disertato perché vedendo un briefing del genere. Ma dici qualcosa, come è rappresentata? Allora, primo punto, promuovere direttamente l'idea che la fertilità è un bene comune. Ma stiamo scherzando, cioè stiamo veramente scherzando. La fertilità è un bene della famiglia, è un bene individuale, poi ognuno decide come gestirselo. Promuovere la bellezza della maternità e paternità, ma perché lo deve dire lo Stato questo? Io da vecchio anarchico mi ribello, cioè lo Stato non può entrare nelle mie faccende personali fino a questo punto. È una cosa indegna. Ma infatti non c'è riuscito. Poi dimmi qualcos'altro, quello che è divertente come cosa. Ecco, l'unico punto utile è promuovere la responsabilizzazione dei singoli alla tutela e cura della propria salute riproduttiva. E questa deve essere la parte fondamentale. Questa è l'unica parte utile, ma io dubito che si possa fare con una campagna pubblicitaria, perché il problema, a parte che sono 5 punti, tipo diffondere la cultura della prevenzione, del controllo della propria salute anche attraverso il rapporto con il proprio medico di fiducia e lo specialista, le campagne devono essere single-minded, devono avere un solo punto, di un obiettivo di comunicazione. Ma come quelle dei dentisti, vatti a fare la prevenzione dentaria. Ma in effetti una delle immagini era stata presa da una clinica dentale. Cioè, quelli dei giovani in ammucchiata vicino all'oceano, quella era la reclama di un dentista, una cosa del genere. Esatto, di una clinica. Togliti questo dente. Ma forse ci vogliono aiutare a sorridere, a me non sembra. Cioè, io non ho riso per niente. La strategia di comunicazione che segue, fatta in modo raffazzonato, ha delle parole chiave obbligatorie, come la parola futuro. Ora, la parola futuro fra pubblicitari è un tabù assoluto, non si deve mai parlare, mai citare la parola futuro, perché a parte che tutti stanno a grattarsi, ma poi è talmente abusata, non ha nessun significato. Stile di vita, adozione alle abitudini salutari, è scritto, non è anche nemmeno in italiano. Tono di voce coinvolgente, dinamico, complice, ma comunque istituzionale e scientifico. Io trovo tutto questo di un paternalismo. Sì, infatti scusa, c'è un disegnino di due che si accoppiavano, la donna stava sotto a gambe strette, più scientifico di così, per rimanere incinta mi sembra perfetto. All'estero hanno fatto delle cose migliori, ad esempio in Danimarca c'è una campagna che andate a vedere su YouTube, è garbata, che dice le cose come stanno, in modo molto diretto, parte dai dati, cioè la popolazione sta calando, stanno aumentando i vecchi, non ci riproduciamo più, che fare? Ma fatto in un modo un po' più giocoso. Noi purtroppo siamo un paese ancora ultracattolico, dove il Vaticano, infatti hanno strizzato l'occhio anche al Vaticano in alcuni lati. Il problema non è questo, il problema è che con 5 obiettivi di comunicazione è impossibile fare qualcosa di sensato. Punto. Ora, o i nostri ministeri, i nostri governanti tirano fuori un ufficio, oppure si mettono d'accordo con dei consulenti esterni a fare una commissione di gente che capisce la comunicazione, perché gli interni, sono l'ufficio stampa, non sono assolutamente in grado di valutare la comunicazione, perché continuano a credere alla leggenda metropolitana dei persuasori occulti, che sono quei maghi che riescono a far cambiare l'idea alla gente. Sì, ma quelli vanno bene se devono vendere detersivi, medicamenti, lavatrici, via dicendo, un po' meno se non poi istigarti a quanto sia bello la maternità e la paternità, è bellissimo per l'esperienza individuale, ma non è un concetto trasferibile agli altri. Fermati un attimo, Bruno, ci fermiamo un istante. Tra un po' abbiamo anche degli ascoltatori. Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando dell'appendice ultima del Fertility Day, che è sintetizzabile nella frase: questi sono i cattivi compagni da abbandonare. E su questo poi abbiamo fatto varie deduzioni. Devo dire, Onore al merito a Bruno Ballardini, riflettevo adesso, è l'unico in tanti giornali, in tanti indignati, in tanti fiancheggiatori che è andato a cercarsi nel sito del Ministero il brief per la pubblicità, cioè sapere cosa volevano, cosa chiedeva il Ministero ai pubblicitari di non fare questa campagna. E ce l'ha elencato tutti i punti, ha fatto la sua giusta e pertinente analisi. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Per quanto riguarda la simpatia o l'antipatia dei nostri antagonisti, io vedo che mio figlio di 5 anni preferisce giocare, che non so, con le bambine bionde piuttosto che con quelle scure, ricce e disordinate. E mi trovo più delle volte d'accordo, quindi è una cosa innata. Io personalmente, che ne so... Perché è abituato a vedere le bambole Barbie... Scoprirà crescendo quelle che sono le doti delle donne ricce, che non immagina nemmeno. Ma io non lo metto in dubbio questo. Io personalmente, che ne so, detesto avere contatti, che ne so, con i drogati, con i volgari, con gli ignoranti, per ordine di importanza. Io no, ma però ognuno ha il suo modo di vista. Io con gli ignoranti non sto proprio benissimo, però li frequento. Non hai nessuna possibilità di dialogo, voglio dire, parli di un argomento che ti risponderà. Guarda, io ignoranti però ne conosco in giacca e cravatta, con i capelli freschi di barbiere, e che siedono molte volte nei locali esclusivi dove la Roma va a prendersi gli aperitivi, cioè hanno un'ignoranza bestiale. Certo. Per quanto riguarda i Fertility Day, ho avuto 6 figli da 4 donne diverse, quindi se poi... Lei ha dato. Ecco, quali sono le sue abitudini... salute, visto che interpretiamo, chiede il Ministero, per avere tutti questi figli. Cosa ha fatto lei? Non si è fatto canne? Non ha frequentato le cattive compagnie? No, ho frequentato solo quelle che me l'hanno data. Quindi pessime compagnie secondo un criterio di giudizio morale. Quindi dice certo. Francesco, in realtà se uno vuol fare figli deve frequentare le pessime compagnie, perché certo. Da un punto di vista biecamente, schifosamente maschilista, tu il figlio puoi farlo con chi te la dà, e chi te la dà di solito è indicata dalla società come donna perduta. Quindi più cerchi donne perdute e più hai possibilità di dare figli alla patria. Questa è anche una equazione intelligente. Paolo. Buongiorno. Sì. Senta, io vorrei una parola di conforto, insomma, perché mi trovo abbastanza confuso. Non chieda da me parole di conforto, che non sono abituato a darle. Io ho 46 anni e diciamo che, rimanendo nello stile della campagna governativa, ho messo la testa a posto da poco, solo 4 anni fa, mi sono sposato e con mia moglie abbiamo fatto 2 figli. Quindi da un lato mi sembra di aver dato sia al problema demografico italiano che diciamo alla campagna Fertility, insomma, ma dall'altro lato mi guardo questa immagine e sono un po' disorientato. Vede, parlando politicamente corretto, mia moglie è negra e i miei figli purtroppo sono venuti fuori rasta perché sono meticci. E adesso come fa lei? E come fa adesso? Io sono in famiglia con 3 persone che stanno... Deve scappare via, non le può più frequentare adesso. Per questo le chiedo una parola. Però scusi, no, c'è una parola, gli do la parola di conforto. Lei risparmierà denaro in costosissimi sistemi anticoncezionali perché ha l'antidoto alla fertilità in casa. Lei guarda sua moglie e figli e le passa la voglia di essere ancora fertile, capito? Quindi lei non ha bisogno di fare quelle file umilianti davanti alle macchinette con le monetine in mano sperando che nessuno ti veda, non ha bisogno di fare quegli imbarazzanti atti di ritrazione nel momento dell'apoteosi, non ha bisogno di spendere soldi in pillole e in sistemi vari. Lei basta, guarda i suoi figli, sono neri e naturalmente quindi sono cattivi compagni da abbandonare, quindi assolutamente lei starà tranquillo fino alla fine dei suoi giorni. Ecco le parole che le ho dato. Antonio. Allora, ciao. Sì, l'ascolto. Sì, allora, senti, io volevo dire questo, io ho visto questi due mondi, io in gioventù sono stato nel mondo pararasta, canne, eccetera. Oggi, diciamo, apparterrei alla cosiddetta classe dirigente, mi sono divertito, non sono andato oltre, sono fertilissimo e vorrei dire alla ministra... Quanto ha fertilizzato lei? 2 volte. 2 fertilizzazioni? Almeno 2 volte con successo. Dopodiché... Nonostante, quante canne sarà fatto in media nei tempi della sua prima fase di vita? Facciamo una media. In tutto 1 migliaio in 2-3 anni. Quindi diciamo che 500, una dose minima di 500 canne permettono ancora la fertilizzazione. Credo proprio di sì. È un test. dati alla mano. Non ridere, questo è un test scientifico. Okay. La scienza dice, a seconda, con evidenza scientifica, che con 500 canne ancora si può fertilizzare. Quindi c'è un problema proprio di base in questa campagna. Spero che la rivedano, seguendo anche i consigli dell'ottimo Bruno Ballardini. Alla prossima.